Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Inutile dirlo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una settimana, quella che si chiude, ricchissima di notizie e di fatti, e questa giornata che sta terminando ancora più intensa, diciamo così. Sono moltissime le cose che si stanno concentrando in queste ore. Intanto il caso Cancellieri che si riapre, sapete, con la rivelazione ieri di Repubblica, e con poi anche il caso politico che si crea, perché adesso il PD si chiede che cosa dobbiamo fare, dobbiamo votare la sfiducia il 20 di novembre con il Movimento 5 Stelle oppure no. Quindi diciamo, ecco, è una giornata in cui i telefoni ritornano in auge e mettono nei guai, diciamo che sono i telefoni, quindi per il caso Cancellieri, ma anche per il caso Vendola. Vendola, il governatore della Puglia, sommerso di critiche per le sue risate, le sue battute in questa intercettazione con il portavoce dell'Ilva. E poi per quanto riguarda i partiti, nel PD appunto si apre questo dilemma politico, e per il PDL doveva esserci un chiarimento definitivo questa sera tra Falchi e Colombe in vista del Consiglio nazionale di domani, però non sembra che siano arrivate, diciamo così, considerazioni finali. Adesso c'è Alfano che fa una dichiarazione: sento fortissimo il bisogno di ribadire che in questi 20 anni non abbiamo sbagliato speranze, ideali e persona, siamo amici del presidente Berlusconi a cui ribadiamo amicizia e sostegno. Però come va a finire ancora non si sa. E poi l'Unione Europea che boccia la manovra del governo Letta. Insomma, un sacco di cose, quindi restate qui a Effetto Notte, perché è sempre, come sempre, tutte le sere l'occasione per avere un quadro completo della giornata e per sentire anche gli ospiti. Ci sarà fra gli altri uno dei candidati alla segreteria del PD, Gianni Pittella. Quindi, caso Cancellieri, la ministra si difende in una lettera e Letta conferma la fiducia, ma nel PD si pensa a un suo passo indietro. Nel PDL le ultime trattative in vista del Consiglio nazionale di domani, Berlusconi dice ad Alfano e ai suoi: Forza Italia è la casa di tutti, chi non ci crede se ne vada. Il governo vara la tariffa sociale sull'acqua, il consumo adesso si paga in base al reddito. E a proposito di acqua, bevi Napoli e poi muori, l'inchiesta shock degli Stati Uniti, il comune chiede un maxi risarcimento per la pubblicazione. Calcio, il nuovo corso dell'Inter, Toir, presidente tifoso, canta chi non salta rosso nero è, e poi stasera a Milano si gioca l'amichevole Italia-Germania. E partiamo quindi con l'approfondimento delle notizie dal caso Cancellieri, che torna per l'appunto, come dicevamo, al centro del dibattito politico. I guardasigilli assicurano non mai mentito. Il premier ancora una volta la blinda, ma le tensioni in vista del voto di sfiducia aumentano. Con una nuova lettera aperta, Anna Maria Cancellieri si difende dal sospetto di aver agevolato la famiglia Ligresti travolta dall'inchiesta Fonsai e smentisce l'accusa di aver detto il falso al Parlamento e ai PM. Dai tabulati telefonici risulta un'altra sua telefonata, come risultano contatti tra il marito della Cancellieri e Antonino Ligresti, fratello dell'ex patron di Fonsai. Sono stata io a riferire il contenuto dei dialoghi, su cosa avrei mentito, scrive, appare incomprensibile. Ai suoi collaboratori il titolare della giustizia ha detto di non ricordare quell'ulteriore telefonata che ora le viene contestata, e a loro prima, come pubblicamente ora, torna a dire che Antonino Ligresti è un amico di vecchia data, nonché il medico di fiducia. A lui mi sono rivolta, si legge, anche in quel periodo in cui ero reduce da un intervento. A sua difesa rimanda al verbale dei PM il guardasigilli e scandisce in modo perentorio di non aver mai interferito sulla vicenda. Rifiuto qualunque sospetto sulla correttezza del mio operato e sul rispetto, conclude, delle regole come cittadina e come ministro. Parole diffuse dopo un incontro col premier che le ha rinnovato la fiducia, ma in vista del voto di mercoledì le tensioni aumentano e dal PD Matteo Renzi torna a ribadire la necessità di un passo indietro del guardasigilli. Il partito si riunirà prima del 21 per decidere la linea e il Movimento 5 Stelle manda a tutti un messaggio: vi aspettiamo al varco. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E in particolare su questo argomento vi ricordo c'è la pagina Effetto Notte trattino Roberta Giordano, la pagina Facebook, se volete commentare il caso Cancellieri. Per esempio, come pensate che si comporterà il PD quando ci sarà il voto, la mozione di sfiducia il 20 novembre. Intanto sul fronte PDL tensioni niente affatto risolte, confermato il Consiglio nazionale di domani, abbiamo detto che sancirà il passaggio a Forza Italia. Ma da Berlusconi è arrivato un ultimatum, un appello da una parte all'Unità dei Moderati, ma anche un invito chiaro: chi non si riconosce più nei valori del nostro movimento, dice, è libero di andarsene. Questa sera non si terrà nessun ufficio di presidenza del PDL, quindi nessuna modifica al documento approvato nella precedente riunione. Per quanto riguarda l'opposizione, fa discutere in casa Sel una telefonata di 3 anni fa di Nichi Vendola. Una splendido scatto, felino. Non potevo riprendermi ora. È il 2010. Nichi Vendola ride al telefono con Girolamo Archinà, l'allora responsabile dei rapporti istituzionali dell'Ilva, adesso agli arresti domiciliari. Il motivo? Lo scatto, apparso comico, con il quale Archinà, nel corso di una conferenza stampa, aveva strappato il microfono ad un giornalista che ad Emilio Riva chiedeva conto dei morti di cancro a Taranto. L'intercettazione è stata resa pubblica da Il Fatto Quotidiano, scatenando una bufera. C'è chi sostiene che Vendola ride dei morti per tumore, chi si chiede come mai fosse così in confidenza con un uomo considerato dagli inquirenti tra i principali artefici delle attività illecite dell'Ilva. Il governatore della Puglia si difende parlando di tentativo di sciacallaggio e linciaggio. Non ridevo dei morti, ma della mossa felina di Archinà, chiarisce. Così Vendola, che ha annunciato querela nei confronti del Fatto Quotidiano, a Repubblica.it. Ora si vuole devastare anche la mia immagine di persona dotata di sensibilità umana. E questa è un'operazione lurida. Movimento 5 Stelle, Verdi e PDL chiedono le dimissioni di Nichi Vendola, che nell'inchiesta sull'Ilva è indagato per concussione aggravata in concorso con Archinà e altri. Questa è la risposta del governatore della Puglia. Che bisogna avere la pazienza di aspettare che io possa andare a farmi interrogare dal giudice. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E contro il governo è tornato a tuonare Beppe Grillo, che oggi ha rilasciato interviste a Radio e TV. Al TG2 ha chiesto di andare subito al voto senza cambiare la legge elettorale, al GR1 della RAI invece l'affondo sulla cassa integrazione, orpello, dice, degli anni 70 da eliminare, secondo Grillo. Mandare via questa gente qua, tutta, via tutta, andiamo alle elezioni. Lei è favorevole al voto anticipato? Assolutamente, noi andiamo alle elezioni. Ma anche col Porcellum? Anche col Porcellum. Guarda, se modificano la legge elettorale, la modificano esclusivamente per non farci partecipare alle elezioni. Possibile che non l'avete capito. Secondo lei il primo provvedimento urgente di cui il paese ha bisogno, il primissimo? Guarda, noi dobbiamo salvare quelli che non ce la fanno. Quindi il reddito di cittadinanza e piccola e media impresa. Immediatamente defiscalizzare il lavoro e la produzione, immediatamente. E arriviamo alle critiche europee alla legge di stabilità. Olli Rehn, commissario europeo per gli affari economici e monetari e vicepresidente della Commissione europea, ha illustrato ieri in conferenza stampa i rilievi dell'Europa alla legge di stabilità italiana. Sentiamolo. According to their draft budgetary plans and our autumn forecast, they are, however, secondo le bozze di legge presentate e le nostre previsioni, la nostra valutazione è che l'Italia è a rischio di non rispettare le regole sul deficit contenute nel patto di stabilità e di crescita. La conformità dell'Italia alle regole del debito è a rischio il prossimo anno, poiché gli adeguamenti strutturali non sono sufficienti per far rispettare i requisiti di debito che sono stati recentemente introdotti con le ultime riforme approvate. Riguardo all'Italia, posso dire che il governo ha sottolineato il suo impegno a continuare nel programma di riforme economiche per aumentare la produttività e la competitività. Tra queste, la spending review, che sarà focalizzata sulla riforma della pubblica amministrazione nelle sue diverse articolazioni, a livello centrale e locale. Contiamo su un forte ed efficace rispetto degli impegni da parte del governo e del Parlamento italiano, sulla base dell'importante revisione delle spese e del prezioso lavoro che è in corso da parte di Carlo Cottarelli. E alle parole del commissario Olli Rehn, che avete appena sentito, ha risposto il ministro dell'economia Saccomanni. Siamo incoraggiati dal fatto che in nessun paese ci sono deviazioni serie e che non c'è bisogno di fare aggiustamenti sui bilanci in corso. Quindi ho letto da qualche parte che dice questa è una brutta storia, non mi pare che sia una brutta storia, è una storia in corso, è un dialogo che noi stiamo facendo, la Commissione ci dà delle indicazioni, questo rafforzerà sicuramente l'attività del governo nelle prossime settimane e questo è un fatto che io considero positivo. C'è poi l'allarme di Confcommercio. Contrariamente a quanto affermano autorevoli esponenti politici, dice Confcommercio, la recessione non è finita, la sua fine appartiene al novero delle ipotesi e delle speranze. E lo dice rivedendo a ribasso la stima del PIL per il 2014 a più 0,3% invece che più 0,5%. E a ribasso anche i consumi. Anche il 2014 per il terzo anno consecutivo avrà segno meno, lo dice sempre Confcommercio, che stima per il prossimo anno un meno 0,2% riguardo alle spese delle famiglie. Sentiamo allora Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio, che commenta a Focus Economia la revisione al ribasso delle stime sull'economia italiana decise dall'Associazione dei commercianti. La recessione dura ancora, c'è ancora oggi, le persone, i lavoratori, le imprese, i cittadini lo sanno benissimo perché la vivono quotidianamente. Ci sembra che anche dato il tenore di questa legge di stabilità, che non taglia le spese e non riduce le imposte, ma anzi diciamo blinda la pressione fiscale oltre il 44%, ecco, anche dato questo documento ci sembra che le possibilità di ripresa concreta siano molto piccole, e quindi abbiamo moderatamente corretto al ribasso il PIL. I primi 9 mesi di questo 2013 sono stati molto più negativi di quanto ci aspettavamo. E la crisi porta anche un record di fallimenti. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati quasi 10.000, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2012, mentre la crescita del solo terzo trimestre è del 9%. Lo affermano dati CERVED. Secondo la banca dati della società specializzata nell'analisi delle imprese e nella valutazione del rischio di credito, i fallimenti sono a livello massimo osservato da più di un decennio nel periodo gennaio-settembre. E contro la legge di stabilità questa mattina hanno manifestato gli studenti in 50 città, all'Alba, a Roma il blitz davanti al Ministero dell'Istruzione, prima del corteo nazionale tra le vie del centro, poi scontri a Bologna dove la polizia ha dovuto caricare. In piazza Milano c'erano oggi anche i sindacati, sempre contro la legge di stabilità, a chiudere la settimana di scioperi articolata in 4 ore nei vari settori. Le proteste proseguiranno, ha precisato così la segretaria della CGIL Camusso. Occupiamoci adesso di acqua, perché è stato approvato oggi in Consiglio dei Ministri il disegno di legge ambiente collegato alla legge di stabilità. È stata introdotta una tariffa sociale per l'acqua. L'acqua si pagherà in base al reddito, questo quanto approvato in Consiglio dei Ministri nel collegato ambiente abbinato alla legge di stabilità. Per la prima volta, dichiarato in conferenza stampa il Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando, sarà prevista una tariffa speciale che tenga conto delle condizioni sociali. E il disegno di legge reca misure urgenti per promuovere la green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Si occupa anche di protezione della natura, valutazione dell'impatto ambientale, acquisti e appalti verdi, gestione dei rifiuti, difesa del suolo, servizio idrico e appunto acqua pubblica. È un pacchetto di norme a 360 gradi dunque, che mira a innescare politiche ambientali virtuose e creare le condizioni per investimenti e crescita economica nel campo della green economy. Al via anche gli appalti verdi. La pubblica amministrazione, tra una risma di carta riciclata e una normale, si impegnerà a comprare quella riciclata, ha dichiarato ancora il ministro Orlando. Ci sono poi misure per incentivare la raccolta differenziata e i comuni che non raggiungeranno gli obiettivi saranno puniti. Enza Loddo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E spostiamoci adesso sulle notizie dall'estero. Nelle Filippine questa mattina sono stati rintracciati altri 2 italiani, compresi nei 6 di cui finora non si avevano notizie. Lo ha annunciato il vice ministro degli esteri Pistelli, sottolineando che per gli altri 4 si è ragionevolmente ottimisti. Ci sono novità dalla Cina. La più rilevante è senza dubbio l'ammorbidimento della legge del figlio unico, in vigore dal 1979, consentendo quindi adesso alle coppie di avere 2 bambini se uno dei 2 genitori è figlio unico. Lo riporta oggi l'agenzia di stampa cinese. Torniamo con la cronaca in Italia, con le nuove polemiche che riguardano Napoli e la Campania. A suscitare l'inchiesta della US Navy di Napoli, base navale americana, bevi Napoli e poi muori, pubblicata oggi dal settimanale L'Espresso, che cita dati preoccupanti sull'acqua del capoluogo partenopeo che sarebbe contaminata da rifiuti tossici sversati nel terreno. Il comune però adirà le vie legali chiedendo, ha annunciato il sindaco De Magistris, 1 miliardo di euro di risarcimento. Dopo 6 mesi passati in carcere è tornato in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare Antonio Caliendo, il 27enne che lo scorso maggio per gelosia mandò in ospedale Rosaria Prea, miss di Macerata Campania, vicino Caserta, sua convivente, dopo averle sferrato un calcio che le spappolò la milza levatala dopo 3 operazioni. In chiusura c'è il calcio con Italia-Germania a San Siro, dove c'è il nostro Dario Ricci. Dario! Dopo pochi istanti il pareggio dell'Italia, siamo al primo tempo, Italia 1, Germania 1, sono stati capi tedeschi all'ottavo minuto, di cross, all'ottavo umbre. Un po' disturbato, Dario, poi sarà la concitazione, poi anche l'ambiente, poi lo stadio non è sempre copertissimo. Comunque 1-1 sono per il momento, Dario. Sì, 1-1 dopo il vantaggio all'ottavo, è arrivato al 28esimo il pareggio di Abate, a conclusione di una bella triangolazione con Osvaldo, a stigmatizzare. Dario, è troppo disturbato, ci risentiamo dopo, cerca di metterti in un punto se possibile dove ci sia più campo, come si dice, a proposito di campo di calcio, anche il campo telefonico. E qui ci fermiamo perché così aggiorniamo chi sta viaggiando, poi cominciamo con gli ospiti, a cominciare da, dovrebbe esserci Gianni Pittella tra poco, c'è la pagina Effetto Notte trattino Roberta Giordano, pagina Facebook, dove potete fare i vostri commenti, per esempio a proposito dei vari ospiti, dei vari argomenti, ma anche in particolare di cosa farà il PD sulla questione scivolosa Cancellieri. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, tra poco entriamo nel vivo, però vi ricordo quali sono i fatti principali di oggi. Il caso Cancellieri, sempre in primissimo piano, la ministra si difende in una lettera, Letta conferma la fiducia, ma nel PD si pensa a un suo possibile passo indietro. Nel PDL intanto le ultime trattative in vista del Consiglio nazionale di domani, Berlusconi dice ad Alfano e suoi, Forza Italia è la casa di tutti, però chi non ci crede se ne vada. Il governo vara la tariffa sociale sull'acqua, il consumo adesso si paga in base al reddito. E parlando sempre di acqua, bevi Napoli e poi muori, l'inchiesta shock degli Stati Uniti, il comune chiede un maxi risarcimento per la pubblicazione. Calcio, come avete sentito, questa sera a Milano si gioca l'amichevole Italia-Germania 1-1 per il momento. E finalmente c'è Gianni Pittella al telefono. Buonasera Pittella. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Buonasera, onorevole europarlamentare del PD, vicepresidente del Parlamento europeo, nonché uno dei quattro candidati alla segreteria del PD. Gianni Pittella, se lei ha voglia, insomma, già al telefono Lorenzo Pregliasco, che saluto, buonasera. Buonasera a tutti. Lorenzo Pregliasco, deve sapere Gianni Pittella, ci darà ora, secondo la rivista online che dirige, che è YouTrend, che si occupa di sondaggi, la situazione dei candidati sinteticamente. Così sentiamo anche lei Pittella a che punto è per quanto riguarda YouTrend, va bene? Sì. Sentiamo. Quindi Lorenzo Pregliasco, quali sono i dati al momento? Uno, sono due staccati, no? Uno sulle primarie, cioè quindi sulle intenzioni di voto per le primarie dell'8 dicembre, e gli altri su questi famosi congressi territoriali, locali, no? Degli iscritti, praticamente i voti degli iscritti sui candidati. Esatto. Ecco, quindi per questo primo livello quali sono i Sì, sono i appunto i voti dei circoli, quindi degli iscritti al Partito Democratico, è la prima fase un po' del congresso. E noi stiamo raccogliendo dati da tutta Italia con una iniziativa che abbiamo chiamato Open P Data e per il momento abbiamo raccolto circa 30.000 voti, in vantaggio ci sarebbe Renzi con il 44%, seguito da Cuperlo con il 38,4%, poi Civati con il 14,5% e infine Gianni Pittella con il 3%. Devo però precisare che sono dati parziali, ovviamente, perché si sta ancora votando e soprattutto il Sud Italia voterà tra domani e dopodomani, quindi i dati potrebbero cambiare quindi, anche sensibilmente. Questo è il livello degli iscritti. Pittella potrebbe esplodere al primo posto nel caso? Glielo auguriamo, insomma. Che dice Pittella? No, ma non è un problema di primo posto, forse non è chiaro. Questa prima fase serve solo a scremare dalla lista dei quattro i tre che andranno alle primarie, quindi a me non interessa arrivare primo, secondo o terzo. Basta l'importante è essere nei primi tre. Sentiamo. Perché poi la graduatoria finale la stabiliscono i cittadini l'8 dicembre. Certo, con le primarie quindi, aperte. Sostanzialmente gli iscritti e le iscritte al PD che vanno a votare in queste ore o che hanno votato, votano non per far vincere Renzi o Cuperlo o un altro, ma per togliere dalla mischia uno dei quattro candidati. Bisogna arrivare a tre candidati, quindi una prima selezione, poi Pregliasco, esatto. Quindi sinteticamente invece per le primarie, quindi le intenzioni di voto, non di chi ha già votato, di chi voterà l'8 dicembre, a che punto siamo con i candidati? Ma qui possiamo insomma citare un sondaggio che abbiamo svolto per il quotidiano Europa la scorsa settimana, naturalmente un sondaggio, quindi va preso con le pinze, però ci sarebbe un forte vantaggio di Renzi come intenzioni di voto con il 72%, poi Cooperlo leggermente davanti a Civati, 15% circa contro 12. Cooperlo sarebbe il 15% e 12 Civati. E Pittella intorno all'1%, però ovviamente sono dati di sondaggio, quindi con tutti i limiti del caso. Benissimo. Lorenzo Pregliasco, io la saluto, direttore di Utrend. Grazie di questi dati. Buonasera. Gianni Pittella, quindi adesso naturalmente questo è soltanto così un preambolo giusto per vedere a che punto secondo alcuni sondaggi, se lo vogliamo commentare. No, ma i sondaggi non mi interessano. Niente, guardi, non ci interessano. Adesso dobbiamo concentrare sulla fase che stiamo vivendo, giusto, quella del voto degli iscritti nei circoli. Per l'8 dicembre. Perché poi sarà tutta un'altra partita, perché ci saranno le liste accanto ai candidati per l'elezione dell'Assemblea Nazionale, cambia completamente lo scenario, quindi i sondaggi che si fanno ora per l'8 dicembre lasciano il tempo che trovano. Benissimo. Allora concentriamoci sul voto di queste ore. Io sono convinto che con il voto delle regioni del centro-sud io possa ribaltare la situazione. D'altra parte, una candidatura che rappresenta una così grande area del paese e che ha il tasso più diciamo forte di europeismo e anche di riformismo socialista, penso che non sia il caso di farla stare fuori dalla terna per l'interesse di tutto il partito da Milano a Palermo. Gianni Pittella, ma a proposito invece poi di altre questioni davanti alle quali vi trovate come PD in modo anche più imminente delle primarie, il caso Cancellieri, no, che oggi è di nuovo scoppiato tra ieri e oggi. Lei, il suo punto di vista, Renzi, è stato forse quello che un po' più chiaramente finora aveva detto giorni fa da Servizio Pubblico: se fossi stato io il segretario del PD non l'avrei difesa, avrebbe fatto un servizio al paese facendo un passo indietro la ministra Cancellieri. Lei che pensa, Gianni Pittella? Ma io avevo detto invece, vediamo che cosa dice la Cancellieri. La Cancellieri ci ha detto delle cose che poi risultano un po' essere smentite degli ultimi sviluppi. Alla luce degli sviluppi successivi, io devo dire che a questo punto credo che sia la cosa migliore, che lei, la ministra, prenda atto di questa situazione che danneggia le istituzioni, il governo e se stessa, e si dimetta. Quindi lei ritiene che voterà per quando si vota il 20 novembre? No, io non voterò perché sono parlamentare. Giusto, lei è europarlamentare. Che si dice allora nel Parlamento europeo del caso Cancellieri? Avrà sentito qualcuno? Commenta oppure no? Ma c'è solo un po' di curiosità, ovviamente non è che si discute nel Parlamento europeo di queste cose. Abbiamo altri dossier da affrontare, da discutere nel colloquio interpersonale con colleghi mi chiedono in realtà che cosa è successo, che cosa è avvenuto e ovviamente io racconto. Ma quindi nulla di, pensavo che ci fossero insomma, commenti spesso sull'Italia, no? Dicono cose anche molto pesanti, molto cattive, a volte i giornali tedeschi, i giornali inglesi, vabbè, comunque. Ma io non ho raccolto ancora, può darsi che mi sia sfuggito qualche nota di stampa. È chiaro che il caso si sta ampliando e non è diciamo configurabile come una prassi che il ministro usava tenere in tutte le circostanze. C'è una concentrazione di interesse e di attenzione sulla situazione Ligresti e questo obiettivamente rende poco difendibile il ministro. Gianni Pittella, lei mi pare che abbia tirato in mezzo soprattutto Renzi, che è dato appunto per favorito al momento, e ha detto però con lui, diciamo, un approccio olistico, cerca di non scontentare nessuno, sembra un sì ma anche, quasi un veltroniano modo, da quello che evoca lei Pittella, almeno in una dichiarazione che ho visto, e dice però confrontiamoci invece sui temi concreti, e fa l'esempio della riforma del welfare, la riforma del fisco, dei diritti. Quindi sinteticamente allora la sua idea di riforma del welfare qual è? Io sono per il welfare delle capacità, cioè sono per potenziare assolutamente e prioritariamente educazione, istruzione, formazione, ricerca e innovazione, perché per poter competere bisogna offrire questi strumenti ai giovani, soprattutto alle ragazze e ai ragazzi italiani, altrimenti noi saremo sempre al secondo posto, al terzo, al quarto, al quinto, perché difettiamo sull'elemento fondamentale che è l'elemento formativo. Invece sul benedetto fisco di cui si continua a parlare, si inventano tasse nuove con nomi fantasiosi. Sul fisco è data a parte che bisognerebbe frenare, stoppare la produzione di nomi, fra poco la chiameremo Guglielmo, Genoveffa. Molta fantasia altro, bisogna dire, senz'altro, al potere. Il problema dell'Italia è l'anomalia italiana e la pesantezza della tassazione sull'attività manifatturiera, cioè più tasse sul lavoro e impresa e meno tasse sulle transazioni e le speculazioni finanziarie. È una vergogna italiana che va assolutamente superata. Ecco perché io penso che la riforma del fisco deve passare attraverso questo passaggio, e poi bisogna osare di più, bisogna ridurre decisamente il cuneo fiscale sul lavoro e sull'impresa. Quello che Letta aveva proposto con la legge di stabilità era un solletico, insomma non fa nessun effetto, ecco perché l'ho considerata la proposta del governo una camomilla nemmeno riscaldata. Senta, invece a proposito di diritti, lei che cosa intende in particolare quando parla di diritti civili, immagino? Io parlo dei diritti civili e penso che il Partito Democratico debba recuperare le belle battaglie che portarono l'Italia a darsi una legislazione appropriata e moderna sul divorzio, una legislazione moderna sulla interruzione consapevole della gravidanza, eccetera. E dobbiamo sciogliere alcuni nodi sui quali fra poco, darsi che siamo già indietro rispetto a Papa Francesco. Io sono contro ogni forma di discriminazione fondata su orientamenti sessuali, sono per le unioni gay, sono perché un bambino che viene buttato in un orfanotrofio è meglio che sia nell'affettività e nell'amore di due persone benché dello stesso sesso. Sono contro la discriminazione fondata sul colore della pelle, sono perché l'immigrazione venga recuperata e venga integrata non soltanto sul piano sociale ed economico, ma anche sul piano politico e dei diritti alla partecipazione al voto. Sono quindi perché il Partito Democratico scelga. In generale sono per un partito che decida, che discuta e decida. Il PD è stato un partito indeciso a tutto e poi, se mi permette, è stato un partito senza un'anima, senza un'identità politica. Io sono perché il PD abbia un'identità politica precisa, quella del socialismo europeo, nel quale campo il PD deve stare e del quale campo e insieme al quale campo il PD deve fare le più belle battaglie per l'equità, per la giustizia, per il rispetto della persona umana. Quindi secondo per la lei sono temi di sinistra questi? Assolutamente sì, sono i temi che fanno parte del DNA delle forze autenticamente progressiste e socialiste europee, ma non dobbiamo avere paura di chiamarci con il nostro nome e con il nostro cognome. Noi siamo parte, dobbiamo essere parte della grande famiglia del socialismo europeo. Quindi lei parlava anche delle adozioni gay, è favorevole, ha sentito di quella coppia di uomini a Bologna a cui è stata affidata una bambina di 3 anni, mi sembra, non so che problemi avesse, se fosse presso gli assistenti sociali, eccetera, quindi è d'accordo anche su una cosa di questo tipo? Dico, se un bambino deve stare nell'anonimato, buttato in un orfanotrofio per tutta la vita, e senza l'affetto di nessuno, ma perché non dobbiamo darlo a due persone che si amano e che poi amano questo bimbo, benché sia dello stesso sesso? Perché? Perché Obama e Hollande devono avere una visione aperta su questi temi e noi dobbiamo sempre stare nella nostra ipocrisia? Mi dico una cosa, Gianni Pittella, anzi prima di questa, lei per le unioni civili o per i matrimoni gay, proprio sinteticamente? No, io sono per le unioni civili. Non per i matrimoni? Ma insomma, io mi fermerei adesso alla... Un passo per volta. Esatto. Senta, se non dovesse disgraziatamente passare alle primarie, diciamo, chi sosterrebbe degli altri candidati, Renzi, Cooper, Lucivati? Io non sono per l'uomo solo al comando, quindi... non decido io chi sostenere, a parte il fatto che sono convinto di passare alla seconda fase. Bene, ma se dovessi, siccome tutto è possibile, diciamo, in politica, nella vita, non sarei io a decidere da solo, convocherei una grande riunione di tutti i miei sostenitori a livello nazionale, insieme decideremo. Mi dica un'ultima cosa, Gianni, proprio ultima, sintetica, proprio telegrafica. Lei si parla sempre, no? Manca la visione del paese. Lei che visione ha, proprio sinteticamente, dell'Italia? Proprio sintetica. Bisogna combattere la povertà. C'è una povertà profonda. Il 90% della società italiana sta male, anche il ceto medio. E c'è un 10% che sta benissimo, i ricchissimi. Ecco perché propongo la patrimoniale sulle grandi ricchezze finanziarie e immobiliari, che colpisca coloro i quali hanno redditi altissimi e proprietà immobiliari estesissime, a vantaggio di chi sta meno male, che costituisce il 90% del paese. Chiaro, chiarissimo. Gianni Pittella, allora io le auguro un'ottima corsa, se non ci sentiamo prima, e poi nel caso ci sentiamo in mezzo, va bene? Grazie, buona serata. Grazie, grazie, buona continuazione a Gianni Pittella. E leggo velocissimamente, vediamo i vostri messaggi su Effetto Notte, Facebook. Come al solito, nonostante tutto, in Italia le dimissioni le devono, a proposito da cancellieri, le devono dare sempre gli altri. A questo punto gli Scajola e gli Idem diventano gli eroi. Poi Floriano dice, questo è Domenico Alberto, Floriano dice, cancellieri se ne deve andare basta, Tullio, qualcuno del PD voterà per la sfiducia, qualcuno no, ma fanno bene i conti in modo che alla fine la cancellieri, stretta amica da sempre di delinquenti, dice, esagerando, insomma, resti come ministro della giustizia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, anche sempre con voi la pagina Facebook di Effetto Notte, e poi tra poco un notissimo politologo, ma prima vi ricordo i fatti principali. Tra l'altro pare ufficiale, il PDL esplode, così titolano i giornali online. Alfano annuncia la scissione, non aderiamo a Forza Italia, sì a nuovi gruppi, e Fitto parla di un atto gravissimo contro la storia, contro Berlusconi. Poi il caso cancellieri, la ministra si difende in una lettera, Letta conferma la fiducia, ma nel PD si pensa a un suo passo indietro. Per quanto riguarda il calcio, c'è l'amichevole a San Siro, Italia-Germania, e sentiamo se ci sono delle novità da Dario Ricci. Dario. Sì Roberta, siamo nell'intervallo del primo tempo che si è concluso sull'1-1, bella partita, mai amichevole tra Italia e Germania, e la regola si conferma, tedeschi in vantaggio all'ottavo minuto, calcio d'angolo di cross, bravo Hummels a svettare sui difensori azzurri e a battere Buffon, peccato perché al terzo minuto era stata invece una punizione di Pirlo, Roberta, a portarci vicino al vantaggio, il tiro di Pirlo alto di pochissimo. Al 17esimo ancora Germania, un destro di Khedira, un diagonale che colpisce il palo, poi rimbalza sulla schiena di Buffon, per fortuna non entra in rete. Al 28esimo arriva il pareggio azzurro, Abate, fino ad allora il terzino destro del Milan era stato tra i meno convincenti, è bravo però a incunearsi nella difesa tedesca, a scambiare con Osvaldo e a battere Neuer con un bel diagonale da dentro l'area. Al 32esimo poi ancora Germania vicino al vantaggio con un tiro di Schürrle su errore di Bonucci che ha scheggiato la traversa. Da sottolineare, Roberta, i fischi di buona parte di San Siro durante l'esecuzione dell'inno tedesco, fortunatamente poi sovrastati dagli applausi sollecitati dagli stessi giocatori azzurri. Ma sì, quindi, applausi agli uni e agli altri, ma alla fine, in sintesi, quanto siamo? Scusa Dario? Siamo 1-1. Sempre. Non è finita perché c'è il secondo tempo. Hai voglia, dopo ci aggiorniamo dopo allora. Buona partita, grazie Dario Ricci. Grazie, grazie a voi. E perché adesso devo salutare il professor Roberto Dalimonte. Buonasera professore. Buonasera. Docente di sistema politico italiano alla LUIS, autore poi di molti saggi anche sul sistema elettorale, maggioritario ma non troppo, maggioritario finalmente, maggioritario per caso. Si è divertito un po' professore a scrivere sul maggioritario, sul sistema elettorale. E poi sul proporzionale. Ma non solo. È anche piuttosto creativo. Alla fine che si farà però? Vedo che non sono molto creativi in Parlamento, o meglio, questo porcellum, forse alla fine il porcellino gli sta simpatico. Che dice lei? Sì, secondo me non si farà nulla. Nulla, non c'è speranza quindi che si cambi questa legge elettorale. È difficile, a meno che la Corte non intervenga, abbiamo... La Corte Costituzionale. Che pende, sì, la Corte Costituzionale. Il 3 dicembre. il 3 dicembre. Il 3 dicembre è l'inizio di un processo che andrà avanti da qualche settimana. E vedremo se ci pensa la Corte Costituzionale, visto che la politica latita da vari punti di vista. Professor Dalimonte, lei a memoria d'uomo, a parte la fine della Prima Repubblica, ha memoria di un periodo politico italiano così convulso come quello in questo momento, cioè col PDL, la scissione, ha sentito Alfano proprio l'annunciato ufficialmente, il PD con le lotte intestine, guerre intestine dappertutto, no? Anche Scelta Civica si sta facendo a pezzi, la Lega adesso con i vari... Lei si ricorda un periodo così... Il periodo 92-93... A parte quello, quindi... Sì, questo periodo assomiglia molto per tanti aspetti, anche quello fu un periodo... chiamiamo di destrutturazione, no? Di cambiamento profondo del sistema partitico, e oggi stiamo attraversando un periodo simile. Quindi come andrà a finire? Cioè, ci sarà una disintegrazione generale di nuovo e appariranno nuovi soggetti? Non credo, a parte Grillo, non vedo all'orizzonte. Beh, ci saranno nuovi soggetti forse già da domani, perché pare perché poi... Le sorprese... Esatto, le sorprese sono sempre all'ordine del giorno, quindi un nuovo soggetto, credo che si chiamerà nuovo centrodestra, mi pare di aver sentito, dovrebbe chiamarsi questa nuova formazione. Quello di Alfano? Quello di Alfano, Formigoni, Lupi e così via, quindi e questo sarà sicuramente un nuovo soggetto, e poi probabilmente nel corso dei prossimi mesi vedremo una trasformazione. Altre trasformazioni del quadro politico, e anche a sinistra non è detto che tutto resti fermo. Beh, è tutto molto, molto fluido, ma lei che giudizio, che idea si è fatto di quello che sta succedendo nel PDL, professor Dalimonte? Beh, siamo alla fine di un'era, no? Berlusconi non è ancora finito, come a volte si tende ad anticipare, però siamo sicuramente al crepuscolo. E quindi questo si spiega col fatto che ormai anche molti dei suoi alleati delfini si stanno posizionando per quello che sarà poi il futuro, il dopo Berlusconi. Quindi è questo un po' il momento di cambiamento. A lei piace Alfano? Basta, non è questione di piacere o meno. È in grado? Non lo conosco personalmente, quindi non posso dirle. Mi sembra che stia cercando adesso di acquistare un'autonomia che fino ad oggi non aveva. Cioè, la sfida in quel campo lì è vedere quanti voti poi questa nuova formazione avrà, perché lì a destra mi pare che Berlusconi sia ancora la persona che detiene il pacchetto di voti vero della destra. Dobbiamo vedere, tutto in evoluzione. Sa, adesso è un'agenzia di questi istanti, di Lupi, ministro Lupi, che fa parte appunto dell'area di Alfano, dei governativi eccetera, che dice Berlusconi resta leader dell'area dei moderati. Insomma, sembra che vogliano staccarsi, però vogliono sempre lasciare un buon ricordo per dire no, ma sono un po' contento. Questo dipende anche dal sistema elettorale. Perché se ci fosse un proporzionale, allora ognuno va per i fatti suoi, ma con un sistema maggioritario, come l'attuale, perché l'attuale è un sistema maggioritario, perché l'attuale sistema è un sistema che richiede alle forze medie, minori, comunque di coalizzarsi, perché alla prossima, se ci dovesse votare con questo sistema elettorale fra 4 mesi o fra 12 mesi o quello che sarà, o 18 mesi, ecco, una forza minore, una forza media come quella che si accingono a creare Lupi e Alfano, che speranze può avere? Deve comunque allearsi ad altri partiti per concorrere all'assegnazione del premio di maggioranza. E chi si allea? Si allea con Letta, con il PD, con Renzi, deve allearsi di nuovo con Berlusconi. E lo stesso accadrebbe se invece di questo sistema elettorale ci fosse un sistema come quello della legge Mattarella, anzi a maggior ragione, perché in quel caso ci sarebbero i collegi uninominali e Alfano non ne vince neanche uno di collegi, un nominale, andando da solo, e quindi deve allearsi comunque con gli altri partiti di destra, e a destra c'è Berlusconi. Professor Roberto Dalimonte, io la ringrazio, conto di riaverla presto se lei avrà voglia, magari anche quando ci avviciniamo alle primarie, a capire cosa succede, o dopo il Consiglio nazionale, se ne avrà voglia. Le faccio l'ultima domanda, visto che lei è capace di queste previsioni, secondo lei Italia-Germania come finisce stasera? 2-2, bene, poi lo valuteremo e la richiamo nel caso, non tardi, non sarà tardi. La ringrazio professore, prego, grazie Dalimonte. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ve le ricordo brevemente le notizie principali. Abbiamo detto PDL, Alfano annuncia la scissione, dice Lupi, il ministro Lupi resta leader dei moderati Berlusconi, ma insomma già si stanno prevedendo la formazione di nuovi gruppi. E poi il caso Cancellieri, la ministra si difende in una lettera, il Presidente del Consiglio le conferma la fiducia e il PD comincia a pensare a un suo possibile passo indietro. Il governo vara la tariffa sociale dell'acqua, il consumo adesso si paga in base al reddito. Il calcio abbiamo sentito con l'amichevole che si sta giocando a San Siro, l'Italia è 1-1 con la Germania, almeno al momento. Ed è venuto a trovarmi Giuseppe Chiellino, ciao Giuseppe del Sole 24 Ore. Buonasera Roberta. Senti, allora l'Unione Europea alla fine ha detto non ci piace questa legge di stabilità, sì. Che si fa? Eh sì, ha detto che non piace a Bruxelles questa legge di stabilità, non è una bocciatura vera e propria perché in realtà guarda più al futuro la Commissione e quindi dice quali sono i motivi per cui non ci può concedere nulla di più. Quello che l'Italia aveva chiesto era una maggiore flessibilità sugli investimenti, visto che è uscita dalla procedura di deficit eccessivo nella quale era stata fino all'estate scorsa e quindi l'Italia aveva chiesto di avere la possibilità di escludere gli investimenti pubblici produttivi dal computo del deficit strutturale, quindi da questo famoso tetto. Però ha detto di no l'Unione Europea. L'Unione Europea ha detto di no. Ha detto di no perché? Perché il nostro debito sta crescendo, continua a crescere, è già cresciuto tanto negli anni scorsi, è arrivato per l'anno prossimo si prevede arrivi al 133,4%, quindi il limite previsto dagli accordi di Maastricht, dagli accordi dell'euro è il 60% del PIL. Caspita, quindi siamo più, un po', più po fuori. E questo è il motivo principale per cui Bruxelles ha detto di no. E, tra l'altro gli accordi tra l'Italia, la Commissione e l'Unione Europea prevedono che dall'anno prossimo l'Italia debba avviare un percorso di rientro di questo debito abbastanza stringente, abbastanza vincolante e quindi nella legge di stabilità presentata dal governo non ci sono le tappe di questo percorso, non è indicato questo percorso, o gli elementi che fanno immaginare questo percorso. Quindi l'Unione Europea cosa ha detto? Non ci stiamo, in più dovete varare delle misure, dei provvedimenti per rientrare un po' da questo debito pubblico? Cos'è che chiede? Sì, l'Unione Europea chiede di intanto di rispettare il limite del 3%, perché ha il dubbio che con i provvedimenti previsti alla legge di stabilità, questo il limite del 3% del deficit, quindi cosa diversa dal debito, non possa essere. Fai la differenza tra debito e deficit? Beh, il deficit è di quel momento, sì, di quella congiuntura. Di un anno, quindi la differenza, il saldo tra entrate e spese. Uscite, deficit. Di un anno. Mentre il debito. Il debito sono i prestiti che uno Stato ha accumulato, che lo Stato ha accumulato nel corso degli anni per fare investimenti, più spesso forse per pagare la spesa corrente e che quindi deve restituire, deve rimborsare. Gli strumenti di debito sono i titoli di Stato, cioè BTP, BOT, con cui i cittadini, gli investitori, anche le banche prestano i soldi allo Stato. Sì, e mi pare che parliate anche di Cina, non del figlio unico, se non sbaglio, sul Sole no, di domani. No, parliamo anche del figlio unico, si è concluso nei giorni scorsi il plenum del Partito Comunista Cinese e oggi sono venute fuori le grandi novità che questo plenum porterà per i prossimi anni, per il prossimo decennio. Sono tante riforme economiche che prevedono sostanzialmente una maggiore presenza dei privati nell'economia, quindi sia nelle imprese che nelle banche, una maggiore flessibilità nella decisione sui tassi di interesse che le banche concedono ai risparmiatori, e poi c'è questa cosa del figlio unico che dicevi, una maggiore flessibilità nella politica del figlio unico. Prima erano tantissimi, dovevano contenerli, adesso vabbè, questi figli unici a volte crescono anche tristi, almeno in Cina, poi magari da altre parti non è abolita, resta, ma è leggermente più ammorbidita. Ricordiamo tra l'altro che è la seconda potenza mondiale economica dopo gli Stati Uniti. Giuseppe Chiellino, allora buon lavoro, visto che chiuderai il giornale. Grazie, buona serata a voi. Ciao Giuseppe. E adesso previsioni invece, non sulla partita, non sul destino dei partiti politici, ma del tempo, col colonnello Mario Giuliacci. Colonnello. Ciao Roberta, posso fare anche previsione che vincerà, ma mi astengo perché non ho tempo. L'ha già fatto il professore Dalmonte, va. Facciamo la previsione del tempo. Ecco, dopo la giornataccia odierna che ha visto piogge su tutta l'Italia, piogge che sono tuttora in atto su gran parte dell'Italia, ha visto nevicate sulle Alpi, ma queste sono ben accetto, ha visto un po' di freddo al nord, diciamo ci sono buone notizie perché già le piogge cesseranno questa notte sul nord Italia, domani ritroveremo un po' di piogge solo sulle regioni meridionali, mentre sul centro nord dell'Italia sarà tornato il bel tempo. Domenica ancora più bello perché diciamo non pioverà in nessuna regione dell'Italia, però attenzione, le piogge ritorneranno nella notte tra domenica e lunedì, e poi da lunedì fino a venerdì quasi tutti i giorni, anzi tutti i giorni pioverà su gran parte, me lo dovevi dire prima che non volevi tutti i giorni. Una triste settimana di pioggia. Va bene, colonnello Mario Giuliacci, tra l'altro ricordo per chi volesse ulteriori notizie aggiornarsi man mano, www.meteogiuliacci.it può avere tutti gli aggiornamenti del colonnello Giuliacci. Grazie Roberto. Comunque sia buon tempo a te colonnello, ciao. È andato il colonnello Giuliacci, adesso andiamo anche noi. Pausa, poi come sempre ritorno giusto per ricordarvi i fatti principali di oggi. A dopo.